Quando c'è la luna piena è una delle soddisfazioni più belle che provo nella vita, andare per pattugio, specialmente da novembre in poi, quando c'è quella bella brina che cammini lì da solo con il cane sotto la luna piena. Interessante. D'altra parte è per questo che siamo venuti in biblioteca, per trovare informazioni sui tartufi. E io mi sono preparato da casa, vedete? Mi sono già preso la segnatura del libro. Ci sta che sia là, su quegli scaffali. Fate vedere. Mamimemo. Eccoci, Molière, il tartufo. È fatta, sentite qua. No, tu senti qua. Francesco, aiutami! Andiamo a pagina... Ecco, da qui! Come mai non vi accorgete, mio caro? Non vi accorgete che vi ride sul muso? Non ho affatto intenzione di farvi arrabbiare. Dico solo che vi sta bene. Mai vista una fissazione come la vostra? È dunque possibile che un uomo vi incanti fino a questo punto? Fino a farvi trascurare ogni cosa per lui. E dopo averlo salvato dalla miseria, state addirittura per... Ma no, caro cognato, voi ne parlate così perché non sapete che uomo sia. Ma lo so, sarà come dite voi. Però per sapere che uomo sia... Mio caro, conoscerlo sarà un piacere per voi. Resterete a bocca aperta. È un uomo, ecco, e chi è fedele al suo insegnamento conosce una pace interiore che gli fa considerare immondizia l'universo. Ah sì, quando parlo con lui mi sento un altro, imparo da lui a non avere più affetti, mi scioglie l'anima da ogni legame e degli altri non mi importa un fico secco. E che sarebbe questa roba? Il tartufo di Molière non è una specie di tubero. È il nome di un personaggio teatrale. Tartufo è un falso maestro spirituale e vive alle spalle di Orgone, che lo mantiene e lo campa. Tutto in cambio di consigli spirituali. Fasulli. Ed era il 1600. Come certi santoni da YouTube che girano oggigiorno. Pescano un po' di qui e un po' di là, si scrivono un copione e poi mandano in stampa o in scena la bufala. O tanto il vino annacquato. In effetti c'era quell'americano. Sì, quello con i capelli anni 80. Alessandro, com'è che diceva? Vi ho invitati qui per rivelarvi il segreto di quello che ho scoperto. In realtà quelle persone avevano pagato un biglietto da 70 euro. E alla fine l'americano non ha rivelato una bella cippa. Appunto, hai capito chi era Tartufo? Ma per trovare quello che ci interessa ci tocca cambiare posto. Vieni, andiamo nella sezione dedicata alle piante e all'agricoltura. Per esempio questo scaffale. E bravo Francesco, finalmente! Questo era il libro che cercavo. Breve ma chiaro. Sentite qua. È indubitato che i tuberi del tartufo bianco sopra le altre parti della pianta entrano nella categoria degli alimenti confacenti al buon nutrimento del bestiame, al quale si possono a piacere somministrare sì crudi che cotti. E dalle bestie cornute e dai cavalli sono mangiati con grande avidità. Quanto agli animali suini, fu detto da taluni non essere cibo gradito, ma il vero è che quantunque sembrino dapprima rifiutarli, non tardano però ad abituarvisi, specialmente se si ha cura di condurli a pascolare sul campo ove sono le piante, permettendo che dissotterrino essi medesimi le tuberose radici per farne pasto ed avvezzarsi a quel sapore. Per somministrarli adunque convenientemente al bestiame di stalla, i tuberi, lavati dalla terra aderente, si riducono col taglia radici in fette o in pezzi e si servono per tutto l'inverno e per una parte della primavera, o soli o misti al secco foraggio. Il celebre Boussingault, sulle molte e costanti esperienze, assicura che il bestiame con questo vegetale nutrito, se non ingrassa rapidamente, si mantiene però nello stato della migliore floridezza e le vacche specialmente ne traggono la metà del bisognevole nutrimento per sé e per il loro allevime. È un italiano un po' buffo, Giorgio. Ma di che anno è questo libro? Boh, e che ne so, mica l'ho scritto io! Ti ci guardo io! Il copyright nei libri antichi è direttamente sulla prima pagina. Memoria sulla coltivazione del tartufo bianco. È di Agostino Reali ed è pubblicata a Camerino nel 1870. A Camerino o a Barberino fa lo stesso. Il fatto è chiaro, il tartufo è una roba puzzolente che non piace neppure ai maiali e quindi vale meno delle ghiande. Ne sei proprio convinto? Sai quanto costa al chilo il tartufo bianco? 6.000 euro e quello nero quasi 3.000. Non è un caso che li chiamino diamanti vegetali. Si vede che questo Agostino Reali era così ricco da permettersi di far crescere le sue bestie a tartufo, ostriche e champagne. Oppure ai suoi tempi il tartufo non si mangiava e lo si buttava agli animali. Nell'uno nell'altro. Il tartufo era già apprezzato ai tempi dei Romani. Plinio, quello che scrisse la Storia Naturale, parla del tartufo come di una meraviglia della natura. Mangiavano i tartufi tanto i babilonesi quanto Napoleone. Probabilmente Reali si riferiva ai tartufi che per noi umani non sono commestibili. Il tartufo è un fungo e cresce tra il 42esimo e il 45esimo parallelo, cioè dal Tennessee al Marocco alla Cina. Ce ne sono qualche centinaia di specie, ma solo poche sono buone da mangiare per noi umani. Le altre o non sanno di nulla o sono sgradevoli al palato. Per esempio, tra quelli buoni c'è il tuber magnatum, ossia il tartufo bianco pregiato, meglio conosciuto come tartufo d'alba. Sì, è l'alba dei morti viventi, ma che è? A Stephen King, come a chiunque, il tartufo gli torna a gola. Ma no, Alba è una città in Piemonte. E non dimentichiamoci del tuber melanosporum, o tartufo nero pregiato, anche lui meglio conosciuto come tartufo di Norcia o di Spoleto, che sono in Umbria. Il tuber magnatum, cioè dei signori, in Italia cresce spontaneo in Piemonte, Langhe e Monferrato, in Lombardia, oltre po' Pavese, in Emilia-Romagna, Appennino Parmense e Romagnolo, in Toscana, sui colli di San Miniato, Alta Val Tiberina, Volterrano, nelle Marche, valli del Metauro e del Candigliano, in Umbria, in Abruzzo, ma anche nel Molise e lungo le Golene, cioè tra l'Argine e il fiume, del Po e del Reno. Matura da ottobre a dicembre. Invece il tartufo quello nero cresce nell'Appennino umbro-marchigiano e in minore quantità nelle regioni vicine, ma anche in Piemonte, Veneto e Liguria, e matura da novembre a metà marzo. I tartufi sono funghi del genere tuber. Si sviluppano sottoterra e non sopra, a una profondità variabile, e il loro micelio, cioè la pianta del fungo di cui il tartufo è il frutto, vive in simbiosi con diverse piante legnose: quercia, pioppo, salice, tiglio, olmo, caprino, faggio, nocciolo, acero, pino. Sì, ma se non sono funghi bianchi e rossi come quelli dei puffi, che oltretutto sono allucinogeni, quindi si capisce perché erano blu. Insomma, questi tartufi che forma hanno? Hanno una forma rotonda e irregolare. come quella di un tubero. Per questo si chiamano così, in latino. Ma le dimensioni variano, da quelle di una noce a quelle di un uovo. Ma qualcuno arriva a essere come una grossa patata. Il peso medio sta tra un minimo di 20 grammi a un massimo di 300 grammi. Ma se ne trovano anche di 800 grammi e, in casi eccezionali, anche oltre il chilo. E come si mangia questo tartufo? A morsi! Sia la corteccia esterna, che si chiama peridio, sia la polpa, che si chiama gleba, sono commestibili. Il profumo e il sapore del tartufo dipendono da quale pianta è in simbiosi, ma comunque si mangia a fettine fini, spesso crude, e così sempre si usa per insaporire altri piatti. Tipo, fatemi un esempio! Prendiamo questo libro, Giovanni Righi Parenti, le 100 migliori ricette al tartufo. Ecco qua, tagliatelline tartufate, tipica ricetta di San Gimignano. Ingredienti: 150 g di tagliatelle, 1 litro di brodo di pollo, parmigiano e tartufo bianco. Fatto il brodo di pollo, mentre bolle, si buttano le tagliatelle. Quando sono al dente, si colano e si spruzzano di parmigiano e tartufo bianco fatto a lamelle. Si mescola e si serve. Facile e buonissima. Il problema è convincere il pollo a fare il brodo al posto delle uova. Non sarà facile, visto che gli escono dal culo. Ma pure questo! Emilia Valli, 1000 ricette di carne rossa. Ma per scrivere il libro a questa gli sarà venuta la gotta! Filetto al tartufo nero. Ingredienti per 4 persone: 4 fette di filetto da 150 grammi, un tartufo di norcia, 2 cucchiai di farina, 4 cucchiaini di parmigiano, una tazza d'olio d'oliva, sale, pepe e un limone. Fatevi tagliare le fette dal cuore del filetto e chiedete che siano spesse, almeno 1,5 cm. Infarinatele, poi disponetele in un recipiente e bagnatele con una emulsione d'olio, pepe e succo di limone. Rivoltatele e lasciatele marinare per circa un'ora. Quindi scaldate bene la griglia, adagiatevi i medaglioni e fateli cuocere 5-6 minuti per parte. Appena rivoltati, salateli e poggiateci sopra una fettina di tartufo. Spargetevi poi il parmigiano e lasciate completare la cottura. Non ci crederete, ma da quando parliamo di tartufo è come se sentissi un odorino, anzi un aroma, di più un afrore, ecco, come di... Beh, che schifo! Giorgio, guardati le scarpe! Hai pestato una cacca! E da quanto puzza direi che è la cacca di un cane alimentato a tartufi. Ma di chi è? Del cane di Bill Gates! Bleh!